Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. E cosa significa veramente essere un grande attore, interpretare dei ruoli che entrano nella vita di tutti, rimanere per decenni sulla cresta dell'onda senza intaccare la propria fama? Non è facile, perché ci sono tante persone che recitano bene eppure arrivano in pochi. Non basta essere bravi, essere, non so, belli, affascinati, avere la fortuna di interpretare personaggi che piacciono. Ci sono esempi di attori che magari hanno avuto un colpo nella vita, un colpo d'ala, ma poi sono caduti nell'oblio pur avendo tutte queste caratteristiche. Probabilmente è un'alchimia difficile da definire, un po' di fortuna, sicuramente ci vuole, ma ci vuole tanto altro. Alcuni sono amati da tutto il mondo per anni, per tutta la vita, crescono di popolarità, e questo è il caso del nostro protagonista di oggi, che vogliamo celebrare al termine di una sua grande carriera, della sua lunga vita, carriera costellata di grandi successi che l'hanno fatto amare dal pubblico internazionale. Il nostro protagonista di oggi è Roger Moore, il grande attore britannico che ci ha lasciato il 23 maggio del 2017, aveva quasi 90 anni, li avrebbe compiuti a ottobre. Vogliamo iniziare il nostro ricordo ascoltando la sua vera voce, non quella dei suoi bravissimi doppiatori italiani. My name is Bond, James Bond. Mr. Calvert, my name is Bond, James Bond. Good afternoon. Can I help you? Yes, my name is Bond. James Bond. Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond. È una frase che è diventata un classico. Io, quando sono stato presentato a Sean Connery, gli ho detto: il mio nome è Ruggeri, Enrico Ruggeri. Sì, perché Roger Moore è stato 7 volte in 7 film il famoso 007, l'agente segreto al servizio di Sua Maestà Britannica. Aveva raccolto un'eredità pesante, appunto quella di Sean Connery, che l'aveva interpretato per 6 volte più un film, come dire, anomalo. Ma come racconteremo tra poco, lui è riuscito a prendere il testimone senza vacillare. Non è stato facile, quelli che sono arrivati dopo non so se ci sono riusciti. Se io vi dico 007, voi mi rispondete o Sean Connery o Roger Moore. Comunque, staffetta, lui l'ha raccolta, ha raccolto questo testimone, ha dato a 007 un'impronta unica di grande successo. Roger George Moore nasce a Londra il 14 ottobre 1927, è amato, figlio unico di una famiglia della media borghesia. Il padre è un agente di polizia, quasi un segno del destino. Lui da bambino rischia di morire per una brutta broncopolmonite e poi gli capita che il medico dica ai genitori con lui presente che non c'erano speranze, che Roger sarebbe morto di lì a poco. Invece lui guarisce, smente quel dottore pessimista, e forse questa esperienza fondamentale per lui nell'affrontare le difficoltà lo segna, lo migliora. Lui ha detto recentemente che nella sua vita non si è mai scoraggiato di fronte a niente, neanche quando in tarda età il dottore gli aveva proibito il martini. È una caratteristica particolare di Roger Moore, lo vedremo, è proprio l'ironia, quell'humor britannico che lui si porta dietro in tutte le sue interpretazioni, che caratterizza la sua cifra artistica, qualunque sia il personaggio di cui veste i panni. Insomma, il piccolo Roger Moore si riprende benissimo dalla broncopolmonite, diventa molto forte, prestante fisicamente, insomma è uno che piacerà alle donne. L'interesse per il teatro e per la recitazione comincia a farsi sentire presto. Lui si iscrive alla Royal Academy of Drama, dove studia, però c'è la Seconda Guerra Mondiale, va a servire la patria, viene arruolato nell'esercito di Sua Maestà Britannica. Per sua fortuna viene arruolato quando la guerra sta finendo, presta servizio in Germania Ovest per alcuni mesi, poi torna a Londra, finalmente può dedicarsi anima e corpo alla sua carriera. Comincia con la radio, piccoli ruoli in TV, e poi però lavora anche come modello, come indossatore, perché insomma ha questa eleganza innata che si porterà dietro per tutta la vita. Il suo primo ruolo di rilievo arriva alla fine degli anni 50, qui i bambini cioè quelli che erano bambini negli anni 60 come me se lo ricorderanno, anche perché per me Roger Moore alla fine è Ivanhoe, tratta dal grande romanzo di Sir Walter Scott. Alla TV dei ragazzi c'era Ivanhoe, era un appuntamento, insomma, che quando avevo 6, 7, 8 anni non mi perdevo mai, e lui interpreta il protagonista Sir Wilfrid, un giovane coraggioso e patriottico. E lui si è in calzamaglia medievale, sempre pronto a sguainare la spada, a combattere. Questo è il debutto di Roger Moore nell'Olimpo delle star. Da quel lontano 58 lui da quell'Olimpo non scenderà mai più. Il falco e il gabbiano. Dopo il successo ottenuto con Ivanhoe, Roger Moore sbarca negli Stati Uniti e arrivano altre due serie televisive che vanno molto bene. Una si chiama The Alaskans, che è appunto ambientata in Alaska sul finire dell'Ottocento, e poi c'è Maverick, che è un western che racconta le vicende di due fratelli giocatori di poker, Bart e Brett. Lui arriva nell'ultima stagione, siamo nel 61, e interpreta Beauregard Maverick, che è il cugino dei due. Poi però c'è una serie televisiva britannica che parte l'anno dopo, siamo nel 62, e questa serie gli apre definitivamente le porte del successo, perché lui veste gli elegantissimi panni di Simon Templar, ladro gentiluomo nella celebre serie Il Santo. Questa è la famosissima sigla di Simon Templar, 6 stagioni di storie avvincenti con questo protagonista che si muove sempre al limite della legalità, ma per il quale poi tu fai il tifo. Lui mette a segno truffe contro i criminali, contro i ricchi, difende le belle donne, i nobili principi, è un ladro gentiluomo che conquista i cuori di tutti. Per me tornare a Londra da una qualsiasi metropoli mondiale è passare dalla tempesta alla bonaccia. I funzionari sono gentili, efficienti, e le persone, secondo il costume britannico, sono posate, quiete, tranquille. Nessuno si intromette mai nella vostra intimità. Calma, prego! Ci vuole un minuto! Calma, prego! Calma! Un momento, signor Templar, sia gentile. Grazie. Ora qualcuno di voi vorrebbe dirmi cos'è questa storia? Non lo sa, è su tutti i giornali stamattina. Ascolti, Byron Uferlitz, celebre produttore cinematografico, ha in progetto un film basato sull'autentica storia della vita del famoso Simon Templar. Questa serie si basa sul personaggio letterario di Simon Templar, soprannominato il Santo, ideato da uno scrittore statunitense, Leslie Charteris, negli anni 20. E questa serie dà a Moore un successo stellare, internazionale, 118 episodi tra il 62 e il 69. E poi l'anno dopo lui mette a segno un altro colpo d'ala grandioso, un'altra serie televisiva britannica che rappresenta un trionfo in tutto il mondo, che ancora una volta mette in risalto le sue doti, il suo personalissimo stile di attore ironico, molto elegante. Stiamo parlando della serie The Persuaders, che in Italia però arriva con un altro titolo che vi dirà molto, soprattutto se siete grandicelli. Il titolo della serie per noi è Attenti a quei due. La mitica sigla di Attenti a quei due, una delle serie televisive più famose di tutti i tempi. La sigla composta da John Barry, autore delle colonne sonore di 12 film di James Bond, uno che ha preso 5 Oscar e che si è sposato Jane Birkin, quindi già valeva la pena di vivere la vita solo se ti sposi Jane Birkin. Attenti a quei due, come dice il titolo, ha due protagonisti principali che sono rivali e amici: Lord Brett Sinclair, che è un aristocratico inglese che ovviamente è interpretato da Roger Moore, e Danny Wilde, che invece è un uomo d'affari americano multimilionario interpretato da un grandissimo Tony Curtis. Ascoltate come i due attori presentano ironicamente la serie all'esordio in Italia, parlando in un italiano molto particolare. Buongiorno, io Tony Curtis, mio amico Kirk Douglas, scusi, no Kirk, Roger Moore. Io lavoro... Sai come si chiama questo? Sì. Questo è Spaghetti. No? Oh, Spaghetti. Spaghetti, yes, cinese. Yes, yes. Lui, questo, lui, che questo sta qui vicino a me, Vuole dire che noi stiamo facendo una nuova serie di film per televisione. Io sono Roger Moore, perché lui ha dimenticato di dire queste cose. Questa è la cosa più importante da sapere, che io sono Roger Moore. Lui è Tony Curtis. Noi siamo bravi. What was that little distance, little Tony Curtis? What are Tony Curtis, Tony Curtis, piccolo così, io sono grande così. E stiamo facendo questa serie in questo canale e speriamo che voi potete vederci. Grazie. Excuse, excuse. Fabulous, fabulous finish. That was German. Buongiorno. Bisogna dire che Roger Moore, l'italiano, lo conosce abbastanza bene, perché la sua terza moglie, che lui sposa nel 69 dopo il secondo divorzio, e con la quale però lui viveva già dal 61, è italiana, è l'attrice Luisa Mattioli. Era una ragazza che lui aveva conosciuto sul set del film Il Ratto delle Sabine, di quel genere che chiamavano peplum, no? Come dire, antichi romani, che andava in voga in quegli anni. E da lei lui ha tre figli: Deborah del 63, Geoffrey del 66, Christian del 73. Poi i due si lasciano nel 94. Roger Moore, che mi sembra non si sia fatto mancare niente nella vita, si sposa per la quarta volta con una multimilionaria svedese che si chiama Christina Tolsgrup, che rimane al suo fianco fino alla fine. Ma torniamo alla serie Attenti a quei due, che ha un successo strepitoso in tutta l'Europa. In Italia è un trionfo, ha successo ovunque tranne che negli Stati Uniti, dove probabilmente l'ironia della serie non viene capita. Sapete che lì hanno dei grossi limiti. Comunque i due protagonisti vivono queste storie di scanzonate avventure ambientate nei posti più belli, più in d'Europa, attorniati da auto di lusso e da donne bellissime. Mi scusi, quest'uomo la infastidisce? È un suo amico. Per la verità sono il suo psichiatra. Se le ha dato fastidio è mio dovere chiederle scusa, dato che è sfuggito al mio controllo. Vuoi scusarci, per favore? Vuoi smetterla di seccarmi l'anima? Mi segue ovunque vado. Lei ha compreso, mania di persecuzione. Mi permetta di presentarmi da solo. Brett Sinclair. Brett per gli amici, ma lei mi chiami pure caro. Prodotta tra il 70 e il 71, la serie va in onda nel 71 e nel 72 in una sola stagione di 24 episodi, poi viene chiusa in fretta per ragioni che non sono mai state specificate. Probabilmente c'è un motivo molto importante: Sean Connery ha deciso di non rinnovare più il suo contratto per i film di James Bond, e Connery in quel momento ne aveva già interpretati 6, era stanco, rinuncia, viene sostituito solo per un film dall'attore australiano George Lazenby. Poi Connery torna perché viene convinto da un cachet milionario, e Connery è uno molto sensibile ai soldi, e interpreta nel 71 una cascata di diamanti, però poi dichiara che non vestirà mai più i panni di 007. E a questo punto i produttori devono trovare un nuovo interprete, anche perché questo Lazenby, insomma, non aveva lasciato un segno. La scelta cade proprio su Roger Moore, anche perché, come dire, intelligentemente si pensa di spostare totalmente lo stile interpretativo, di non cercare di fare una copia di Sean Connery, anche perché sarebbe stata una cosa impossibile, perdente, di virare verso un James Bond diverso. E Roger Moore accetta la sfida con ironia, ma anche con determinazione. Nel 73 esce Live and Let Die, Vivi e lascia morire, ed è uno straordinario colpo d'ala verso l'alto di Roger Moore, che ha un successo personale unico. Il film peraltro è uno dei migliori della saga di 007, anche grazie a una colonna sonora strepitosa che ha realizzato George Martin, il produttore dei Beatles. E poi c'è una canzone scritta da Paul McCartney e dalla moglie Linda, cantata con i Wings, che fa da ulteriore traino al film. La canzone si chiama appunto Live and Let Die. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è l'atletico Roger Moore, che è venuto a mancare il 23 maggio 2017 e che ha lasciato un meraviglioso ricordo nei suoi milioni di fan che l'hanno sempre amato e seguito con affetto. Moore ha avuto una carriera straordinaria, abbiamo già raccontato di Simon Templar, di Attenti a quei due, di James Bond, insomma di 007, e il suo successo l'ha avuto in maniera particolare grazie a una grande eleganza, ma soprattutto a un'ironia disinvolta, disincantata, tipica inglese, un'ironia che non l'ha mai abbandonato neanche nei suoi ruoli più impegnativi. Negli ultimi anni della sua lunga vita si è dedicato alle campagne umanitarie, è diventato ambasciatore dell'UNICEF per difendere i bambini di tutto il mondo, ha prestato la sua immagine all'associazione People for the Ethical Treatment of Animals, contribuendo a condannare la produzione del foie gras. È stato nominato nel 2003 Cavaliere dell'Impero Britannico e quindi si è potuto fregiare del titolo di Sir Roger Moore. Stiamo ripercorrendo la sua lunga, straordinaria carriera. Siamo arrivati a quel fatidico 1973 nel quale per la prima volta ha vestito i panni di James Bond, l'agente segreto 007 al servizio di Sua Maestà Britannica, il più famoso agente segreto di tutti i tempi, nato dalla fantasia del grande scrittore inglese Ian Fleming. Il film di esordio è 007, Live and Let Die, Vivi e Lascia Morire. Quanto ne sa sui coccodrilli Bond? Ho sempre cercato di tenerli a distanza, personalmente. Carini, vero? Non credo che queste potenziali borsette siano degli orfani. Oh, no, abbiamo anche dei papà e delle mamme. Ne abbiamo qualche migliaio. Mangiano qualsiasi cosa. Si mangiano anche l'un l'altro. Altre volte, invece, non mangiano per tutto un anno. Confesso che contavo su questo. Ci sono due modi per naturalizzare un coccodrillo, lo sai? E lei non ci pensa neanche a darmi questa informazione, scommetto. Beh, un modo è prendere una matita e ficcargliela con forza dentro un occhio. E l'altro? L'altro è molto, molto più semplice. Gli si mette una mano in bocca e gli si cavano i denti. E il successo è grandioso. Roger Moore fa una intelligentissima rilettura del personaggio Bond, si allontana mille miglia dall'agente segreto che aveva disegnato Sean Connery, e con Moore 007 acquisisce una sua ironia tutta speciale. Ascoltate cosa dichiara alcuni anni dopo in riferimento alla cosiddetta Bond Battle, cioè la battaglia tra i Bond, perché naturalmente c'è chi preferisce lui e chi preferisce Sean Connery. Sean Connery ed io mettiamo ovviamente nei personaggi che interpretiamo la nostra personalità. E le nostre due personalità sono completamente differenti. Quindi James Bond ne viene fuori molto diverso. Per quello che mi riguarda, quello che ho fatto, ho cercato di fare, è trattarlo con humor. Dai, lui non è una spia segreta. Chiunque nel mondo lo riconosce. Ah, certo, quello è James Bond. Ha in mano un martini e sta mangiando una ragosta. Voglio dire, non è una vera spia. Le spie vengono dal freddo. Beh, in effetti di segreto James Bond ha poco. Comunque lo 007 di Roger Moore ha un successo strepitoso, lo interpreterà in 7 film. Quello successivo nel 74, Agente 007, L'uomo dalla pistola d'oro. Me la fa provare in marcia? Certo, signore. Ma cosa diavolo sta succedendo? Lo sa? Io la conosco. Lei è quell'agente segreto. L'agente segreto che veniva dall'Inghilterra. Stai seguendo qualcuno, vero? A chi dà la caccia stavolta? Comunisti? Andiamo a ciuffarli, le do una mano volentieri. E il meccanismo dei film di James Bond è per sa poco sempre lo stesso: c'è il mondo da salvare, i cattivi da sconfiggere, viaggi in luoghi straordinari, macchine meravigliose, donne meravigliose, le famose Bond Girl, tutte bellissime e tutte ovviamente innamorate di lui, di 007, come nel successivo La spia che mi amava, 77, con una splendida, ma splendida di brutto, Barbara Bach, e che poi diventerà la moglie di Ringo Starr, Barbara Bach, nei panni dell'agente segreto russo Tripla X. Forse ho giudicato male, Stromberg. Chiunque beva Don Perignon del 52 non può essere tanto malvagio. La missione è compiuta, comandante. Yeah. Nel mio paese maggiore al condannato viene in genere concesso un ultimo desiderio. Concesso? Togliamoci questi vestiti bagnati. Ma James, e i nostri superiori che diranno? Non lo sapranno mai. Abbassare il portellone di pompa. Siamo sicuri che dentro ci sono loro? Lo scopriremo presto. James! 007 tripla X Bond, che sta facendo? Cercò di tenere su la bandiera inglese. Tutti noi ci siamo occupati di tenere su bandiere delle nostre appartenenze. Sì, come vedete, la cifra artistica di Roger Moore è l'ironia. Gli sceneggiatori si adeguano a questa sua caratteristica che lo fa amare molto dai fan di tutto il mondo. Nel film successivo, che esce nel 79, la saga continua con Moonraker, Operazione Spazio. Gli sceneggiatori vogliono sfruttare, diciamo così, l'onda del successo di Star Wars e adattano il romanzo di Fleming Moonraker e lo ambientano appunto nello spazio. Anche qua James Bond salva l'umanità dallo sterminio del cattivo di turno che agisce proprio dallo spazio. Dopo Solo per i tuoi occhi dell'81, quinto film, Roger Moore comincia a accusare un po' di stanchezza nei confronti del personaggio, perché lui peraltro nel frattempo ha girato anche altri film bellissimi, come per esempio i 4 dell'Oca Selvaggia con Richard Burton. Insomma, sente di poter fare altro oltre a 007. Nell'83 però non può rifiutarsi di fronte a una sfida senza precedenti, perché Sean Connery ha accettato di vestire nuovamente i panni dell'agente segreto James Bond in un film però apocrifo, cioè non della serie ufficiale, che si chiama ironicamente Mai dire mai, visto che lui aveva detto che non avrebbe mai più recitato nel ruolo di James Bond. E allora bisogna rispondere, e così la saga ufficiale di Bond esce contemporaneamente con un nuovo film con lui, con Roger Moore, Octopus e Operazione Piovra. La sfida è aperta, si combatte a colpi di audience, di biglietti venduti nelle sale cinematografiche, e vince Roger Moore, perché è il suo film il campione di incassi. C'è un aneddoto bellissimo, direi commovente, che ci fa capire la personalità di Roger Moore e anche il fatto che per una certa generazione il vero James Bond sia stato Roger Moore. Questo aneddoto l'ha raccontato sul web, dopo la morte di Moore, lo sceneggiatore Mark Haynes. Lui l'aveva incontrato da bambino a 7 anni, Roger Moore, e gli aveva chiesto l'autografo, ma era convinto, come tutti i bambini, di avere di fronte James Bond. Quindi era rimasto deluso quando aveva letto un'altra firma. Ma Roger Moore gliel'aveva detto: guarda che hai sbagliato a scrivere il tuo nome, tu mi devi scrivere James Bond. E ascoltate il suo racconto. Gli sono vicino, lui si china, si guarda intorno, alza un sopracciglio e con voce bassa mi dice: ho dovuto scrivere Roger Moore perché altrimenti Blofeld, il mio nemico giurato, potrebbe scoprire che sono qui. Poi mi chiese di non dire a nessuno di aver visto James Bond, che dovevo tenere il segreto. Tornai contentissimo al mio posto. Ero diventato un alleato di James Bond. Sì, un gesto bellissimo. Peraltro successivamente Mark Haynes ha anche raccontato di aver rincontrato tipo 40 anni dopo Roger Moore, e lui gli ha confermato la storia. Ha continuato a recitare questa parte. Comunque Roger Moore termina la saga di James Bond con un ultimo film nell'85, a 58 anni lui. È un altro grande successo, Bersaglio Mobile, con il grande Christopher Walken e con una inquietante Grace Jones. Probabilmente l'articolo più bello scritto subito dopo la scomparsa di Roger Moore l'ha scritto Maurizio Porro del Corriere della Sera, e ha detto peraltro che lui è stato un gran signore, un signore del cinema inglese, l'erede di quella generazione di gente come David Niven, come Stewart Granger, che sapevano tirare di spada, cito, ma sempre con signorilità, accomodandosi poi la giacca e bevendo un cocktail. Intanto buongiorno Maurizio Porro, grazie. Buongiorno, sentito con piacere. ma è vero che lui è, siccome tutti l'hanno identificato con James Bond perché per ovvie ragioni, però lui di radice era un'altra cosa, insomma era quella roba lì, l'attore inglese elegante che poteva anche fare Shakespeare, magari certo, non meravigliosamente, però aveva sempre una sua grazia, un self control, insomma. Adesso non so se sia ancora di moda per gli inglesi, ma spero di sì. Peraltro io e qui denuncio la mia età, insomma, non tenera. Se penso a Roger Moore, la prima cosa che mi viene in mente è Ivanhoe. E anche lì lui aveva il sopracciglio alzato, anche quando si batteva con cinque omaccioni. Sì, sì, era uno stile già etico brechtiano, non si medesimava mai, non l'ho mai sentito nel senso emotivo al cinema ardere di passioni, sì. Aveva sempre una certa distanza, e questo andava tra l'altro bene per James Bond, perché gli dava un po' di ironia, così che era quello che ci voleva, insomma, essendo le avventure incredibili. Poi lui ha raccolto un'eredità pesantissima, perché l'eredità di Sean Connery, insomma, non era semplice, e come ha fatto a uscirne? Ma non è uscito, perché tutti, così, insomma, la grande maggioranza, se tu chiedi, tutti danno la palma ancora a Sean Connery, però devo dire che ha mantenuto saldo il bastone del comando, come si diceva una volta, che ne ha fatti 7 di fila, sì. Non solo, ma nell'83 quando sono usciti insieme Octopussy, ha vinto lui, e poi Bond è venuto il sghiribizzo a Sean Connery di farne un altro apocrifo, mai dire mai, sì. Ha vinto per poco, ma ha vinto Roger Moore, perché la gente l'aveva adottato, insomma. Ecco. Però adesso diciamolo fra di noi, Connery aveva qualcosa in più, quel qualcosa in più che secondo me è anche Daniel Craig, ed è l'aria proletaria, il sottofondo di dire io bevo whisky nel casino, però sono un'altra cosa. Ma James Bond deve avere l'aria proletaria? Un pochino, adesso proletaria te lo dico in senso, sì, no, in senso working class, non con la cazzuola in mano. No, certo, arriva dal basso. Però neanche differenza. Sposare la causa dei potenti, dei signori, dei politici di sua maestà, insomma. Certo. Insomma, quello che poi salvava tutti era l'ironia, non a caso il primo Bond c'era Woody Allen e David Niven, Casino Royale. Certo, quindi. Ma com'era Roger Moore come attore? Cioè si è salvato un discreto che si è salvato con queste qualità. Sì, sì. Era quello che una volta le signore dicevano ai tante, una faccia di cui fidarsi, mentre Bond e Craig hanno molto meno. Ecco, sì. Fra tutti i James Bond, Moore è quello che le zie e le nonne adotterebbero di più, ecco. Era un uomo per tutte le stagioni. Sì, insomma. Beh, infatti, ha fatto cose diverse, insomma, perché... Era per famiglie, non a caso ha fatto un telefilm e una serie popolarissime, e anche Ivanhoe, che dicevi tu. Certo, ma è lì, qual è il motivo? Diciamo, forse le scelte? Non lo so, lui credo, da quello che ho letto, poi così, credo che gli piacesse molto il teatro, quindi avesse voluto provare i corsi e i soliti folletti shakespeariani, ha fatto delle cose. Però poi evidentemente non aveva quel physique lì, aveva più il physique del cinema. Poi è cominciato con Liz Taylor, l'ultima volta che vidi Parigi, sì. Vedi, qui denuncio anch'io, denuncio. E poi quando uno incomincia a fare il cinema e ha un certo successo rimane incastrato. Se fai poi la televisione sei ancora più incastrato, perché certo. Attenti a quei due, credo che sia stato un suo cruccio, insomma, certo. Come lo sono i ruoli, insomma, il nome della rosa non avrebbe potuto farlo lui. No, lo lasciamo a Sean Connery e adesso chi lo fa in teatro a Torino, certo. Grazie però mille. Con tutto questo non voglio dire che sia ce ne sono tantissimi, c'erano tantissimi, certo. Attori così, beh, certo. Diciamo pure di routine, ma dando alla parola un significato anche abbastanza nobile, uno che per tanti anni ha lavorato e se non è stato mai al Werner Lawrence Olivier, però non è neanche sceso sotto un certo livello. Certo. E poi insomma un inglese che riesce a far ridere gli americani senza americanizzarsi, sì. Non è poco, no? Sì, certo. Che non credo sia semplice. Maurizio, grazie mille, grazie di tutto. A presto, grazie. Buon lavoro. È difficile dare colpi d'ala fino a 90 anni, è difficile, come dicevamo prima, riuscire a entrare in un mercato un po' grossolano come quello americano, rimanendo